Tao Qian aveva patito la fame da bambino, ma il suo corpo si era comunque allungato fino a raggiungere un'altezza superiore a quella di qualsiasi altro membro della sua famiglia. A 14 anni non provava attrazione per le ragazze in affitto, ma solo curiosità scientifica. Erano così diverse rispetto a lui e vivevano in un mondo talmente remoto e segreto che non poteva considerarle realmente umane. Più tardi, quando l'improvviso agguato della natura gli fece perdere il senno e fu costretto ad andare in giro come un ubriaco che inciampa nella propria ombra, il precettore deplorò di essersi disfatto delle concubine. Niente distraeva tanto un bravo studente dalle sue responsabilità quanto l'esplosione delle forze virili. Una donna l'avrebbe tranquillizzato e già che c'era gli avrebbe offerto conoscenze pratiche, ma siccome l'idea di comprarne una gli risultava fastidiosa, si trovava a proprio agio in quell'universo esclusivamente maschile. Per calmare gli ardori, il maestro obbligava Tao a bere infusi. Lo Zhong Yi non ricordava l'uragano delle passioni carnali e con le migliori intenzioni diede da leggere all'allievo i libri del guanciale della sua biblioteca come parte del programma educativo, senza valutare l'effetto sfibrante che avevano sul povero ragazzo. Gli fece memorizzare tutte le 222 posizioni dell'amore e i loro poetici nomi e pretese che poi fosse in grado di riconoscerle senza esitare nelle splendide illustrazioni dei suoi libri, attività che contribuiva non poco a distrarre il giovane. Tao Qian familiarizzò a tal punto con Canton che arrivò a conoscerla come il suo piccolo villaggio. Gli piaceva quella vecchia città cinta da mura, caotica, con le strade storte e i canali in cui i palazzi e le capanne si mescolavano in totale promiscuità, in cui c'era gente che viveva e moriva nelle barche sul fiume senza avere mai calpestato la terraferma. Si abituò al clima umido e al caldo della lunga estate sferzata dai tifoni, ma gradevole in inverno da ottobre a marzo. Cantone era chiusa ai forestieri, benché spesso entrassero di sorpresa pirati con bandiere di altre nazioni. Esistevano alcuni spazi per il commercio in cui gli stranieri potevano scambiare la merce solo da novembre a maggio, ma le imposte, le ordinanze e gli ostacoli erano talmente numerosi che i mercanti internazionali preferivano stabilirsi a Macao. La mattina presto, quando Tao Qian si dirigeva al mercato, era solito trovare bambine appena nate, gettate in strada, o che galleggiavano nei canali, spesso deturpate dai morsi dei cani e dei topi. Nessuno le voleva, si potevano buttare via. Per quale motivo allevare una figlia che non valeva nulla e il cui destino era andare a fare la serva alla famiglia del marito? È meglio un figlio deforme che una dozzina di figlie sagge come Buddha, sosteneva un detto popolare. E comunque di bambini ce n'erano troppi e continuavano a nascere come i topi. Bordelli e fumerie d'oppio proliferavano ovunque. Canton era una città popolosa, fiorente, allegra, ricca di luoghi di culto, ristoranti e case da gioco in cui si celebravano rumorosamente le festività del calendario. Persino le punizioni e le esecuzioni si trasformavano in occasione di festa. Era immensa la folla che si riuniva per applaudire i boia con i loro grembiuli insanguinati e le loro collezioni di lame affilate che mozzavano teste con un unico colpo ben assestato. La giustizia veniva amministrata in modo semplice e spedito, senza possibili appelli né inutili crudeltà. Salvo nel caso di tradimento all'imperatore, il peggiore dei crimini, che si pagava con la morte lenta e il confino di tutti i parenti ridotti in schiavitù. Le colpe minori venivano punite con frustate o con l'applicazione di una placca di legno al collo dei colpevoli per diversi giorni, che così non potevano né riposare né arrivare alla testa con le mani per mangiare o grattarsi. Nelle piazze e nei mercati facevano sfoggio delle loro arti i narratori di storie che, come i monaci mendicanti, viaggiavano per il paese preservando una millenaria tradizione orale. Giocolieri, acrobati, domatori di serpenti, travestiti, musicisti itineranti, maghi e contorsionisti si davano appuntamento nelle strade e intanto intorno a loro ferveva il commercio di seta, tè, giada, spezie, oro, gusci di tartaruga, porcellana, avorio e pietre preziose. Verdura, frutta e carne venivano offerte in un disordinato guazzabuglio, cavoli e teneri germogli di bambù insieme a gabbie di gatti, cani e procioni che il macellaio, a richiesta dei clienti, uccideva e scoiava con un unico colpo. Vi erano lunghi vicoli letteralmente invasi da uccelli perché in nessuna casa potevano mancare volatili e gabbie, dalle più semplici a quelle di legno fino tempestato d'argento e madreperla. Altre zone del mercato erano riservate ai pesci esotici che portavano fortuna. Tao Qian, sempre curioso, si distraeva osservando e facendo amicizie, poi doveva correre per svolgere le commissioni nel settore in cui si vendevano i prodotti per la sua professione. Poteva individuarlo a occhi chiusi dal penetrante odore di piante, spezie e cortecce medicinali. I serpenti essiccati venivano impilati, arrotolati come matasse polverose, rospi, salamandre e strani animali marini pendevano infilzati sulle corde come collane. Grilli e grandi scarabei dai duri carapaci fosforescenti languivano nelle casse, scimmie d'ogni specie attendevano il loro turno per morire, zampe d'orso e d'orangutan, corna d'antilope e di rinoceronte, occhi di tigre, pinne di squali e artigli di misteriosi uccelli notturni venivano comprati a peso. Tao Qian trascorse i primi anni a Canton studiando, lavorando e servendo l'anziano precettore che arrivò a venerare come un nonno. Furono anni felici, il ricordo della sua vera famiglia sfumò e arrivò a dimenticare i volti del padre e dei fratelli, ma non quello della madre, che gli appariva di frequente. Lo studio ben presto smise di essere un compito per trasformarsi in una passione. Ogni volta che imparava qualcosa di nuovo, volava dal maestro per raccontarglielo con eccitazione. Quanto più imparerai, prima ti accorgerai di quanto poco sai, rideva l'anziano. Di sua iniziativa, Tao Qian decise di imparare il mandarino e il cantonese perché il dialetto del suo villaggio risultava insufficiente. Assorbiva il sapere del maestro a una tale velocità che il vecchio era solito accusarlo per scherzo di rubargli perfino i sogni. Ma la grande passione per l'insegnamento faceva di lui un uomo generoso. Condivise con il ragazzo tutto ciò che quest'ultimo desiderava sapere, e non solo in materia di medicina, ma anche in altri aspetti del suo vasto bagaglio di sapere e della sua raffinata cultura. Benevolo di natura, si mostrava però severo nella critica ed esigente in quanto a impegno, perché, come era solito dire, non mi rimane molto tempo e non posso portarmi all'altro mondo ciò che so, qualcuno lo deve poter usare alla mia morte. Tuttavia, lo metteva altresì in guardia dalla cupidigia della conoscenza che può incatenare un uomo tanto quanto la gola e la lussuria. Il saggio non desidera nulla, non giudica, non fa progetti, mantiene la mente aperta e il cuore in pace, sosteneva. Quando doveva riprenderlo, veniva pervaso da una tale tristezza che Tao Qian avrebbe preferito una bastonatura. Ma tale pratica ripugnava il temperamento dello Zhong Yi, che non consentiva mai alla collera di guidare le proprie azioni. Le uniche occasioni in cui lo colpì cerimoniosamente con una bacchetta di bambù, senza stizza ma con fermo intento didattico, furono quando venne a sapere per certo che il suo apprendista aveva ceduto alle tentazioni del gioco o aveva pagato una donna. Tao Qian spesso imbrogliava sui conti del mercato per fare scommesse nelle case da gioco, alla cui attrazione non sapeva resistere, o per una breve pausa consolatoria nei bordelli, con lo sconto da studente, nelle braccia di qualcuna delle sue pazienti. Il padrone non tardava a scoprirlo, perché se perdeva il gioco non era in grado di spiegare dove era andato a finire il denaro del resto e se vinceva non era capace di dissimulare l'euforia. Le donne invece le odorava sulla pelle del ragazzo. Togliti la camicia, dovrò darti qualche vergata e vediamo se capisci una buona volta, figliolo. Quante volte ti ho detto che i peggiori mali della Cina sono il gioco e il bordello. Con il primo gli uomini perdono il frutto del loro lavoro e con l'altro la salute e la vita. Con questi vizi non sarai mai un buon medico né un buon poeta. Nel 1839, quando scoppiò la guerra dell'oppio tra Cina e Gran Bretagna, Tao Qian aveva 16 anni. In quel periodo il paese era invaso da mendicanti. Masse umane abbandonavano i campi e apparivano con i loro stracci e le loro pustole nella città da cui venivano cacciate a forza, trovandosi quindi obbligate a vagare come branchi di cani famelici per le strade dell'impero. Bande di fuorilegge e ribelli si battevano con le truppe del governo in un'interminabile guerra di imboscate. Erano tempi di distruzione e saccheggi, i deboli eserciti imperiali al comando di ufficiali corrotti che ricevevano da Pechino ordini contraddittori non riuscirono a far fronte alla potente e ben organizzata flotta navale inglese. Non potevano contare sull'appoggio popolare perché i contadini erano stanchi di vedere i campi distrutti, i villaggi in fiamme e le figlie violentate dalla soldataglia. Nel giro di quasi 4 anni di scontri, la Cina dovette accettare un'umiliante sconfitta e pagare ai vincitori l'equivalente di 21 milioni di dollari, cedere Hong Kong e concedere il diritto a istituire concessioni, tra virgolette, quartieri residenziali tutelati da leggi di extraterritorialità. Lì vivevano gli stranieri, con la loro polizia, i loro servizi, governi e leggi, protetti dalle loro truppe. Erano veri e propri stati all'interno del territorio cinese, dai quali gli europei controllavano il commercio, specialmente quello dell'oppio. A Canton entrarono soltanto dopo 5 anni, ma nel toccar con mano la degradante sconfitta del suo venerato imperatore e nel vedere l'economia e la morale della patria a pezzi, il maestro di agopuntura decise che non c'era più ragione per continuare a vivere. Durante gli anni della guerra, al vecchio Zhong Yi si guastò l'anima e la serenità, così faticosamente raggiunta nel corso dell'esistenza, si perse. Il disinteresse e il distacco dalle questioni materiali si acuirono al punto che quando persisteva nel digiunare, Tao Qian doveva imboccarlo. Prese a ingarbugliarsi con i conti e i creditori iniziarono a bussare alla sua porta, ma lui li ignorò, dato che tutto ciò che riguardava il denaro gli sembrava un ignominioso gravame dal quale i saggi erano naturalmente dispensati. Nella confusione senile di quegli ultimi anni dimenticò le buone intenzioni di adottare l'apprendista e di trovargli una sposa. Era talmente offuscato che spesso rimaneva a guardare Tao Qian con espressione perplessa, senza riuscire a rammentare il nome o a collocarlo nel labirinto di volti ed eventi che disordinatamente prendevano d'assalto la sua mente. Ma per decidere i particolari della sua sepoltura, le energie non gli mancarono, perché per un cinese illustre il proprio funerale è l'evento più importante della vita. L'idea di mettere fine all'avvilimento con una morte elegante gli frullava in testa da tempo, ma attese l'epilogo della guerra con la segreta e irrazionale speranza di vedere il trionfo degli eserciti del Celeste Impero. L'arroganza degli stranieri gli risultava intollerabile, provava un profondo disprezzo per quei selvaggi Fangwei, fantasmi bianchi che non si lavavano, bevevano latte e alcol, ignoravano completamente le norme elementari della buona educazione ed erano incapaci di onorare i propri avi nel modo appropriato. Gli accordi commerciali gli sembravano un favore concesso dall'imperatore a quei barbari ingrati che, invece di chinarsi in segno di lode e gratitudine, pretendevano sempre di più. La firma del trattato di Nanchino fu per lo Zhong Yi il colpo finale. L'imperatore e ogni abitante della Cina, financo il più umile, avevano perduto l'onore. Come si sarebbe mai potuta recuperare la dignità dopo un simile affronto? L'anziano saggio si avvelenò ingoiando oro. Di ritorno da una delle sue camminate per i campi alla ricerca di piante, il discepolo lo trovò nel giardino, adagiato su cuscini di seta e vestito di bianco. In segno di lutto. Di fianco a lui si trovavano il tè ancora tiepido e l'inchiostro del pennello fresco. Su un piccolo scrittoio c'era un verso incompiuto e sulla morbida pergamena si delineava una libellula. Tao Qian baciò le mani di quell'uomo che tanto gli aveva dato e poi si trattenne per un istante per apprezzare il disegno delle ali trasparenti dell'insetto alla luce del tramonto, esattamente come il suo maestro avrebbe desiderato. Al funerale del saggio intervenne un'immensa folla perché nel corso della sua lunga vita aveva aiutato migliaia di persone a vivere in salute e a morire senza angoscia. Gli ufficiali e i dignitari del governo sfilarono con la massima solennità, i letterati recitarono le poesie più belle e le cortigiane si presentarono avvolte nella seta. Un indovino stabilì il giorno propizio per la sepoltura e un artista di oggetti funebri visitò la casa del defunto per fare una copia dei suoi beni. Percorse la proprietà lentamente, senza prendere né misure né appunti, ma sotto le voluminose maniche faceva dei segni con l'unghia su una tavoletta di cera. In seguito fabbricò delle miniature di carta della casa con le stanze e i mobili, oltre agli oggetti preferiti dal defunto che dovevano essere bruciati insieme a fasci di denaro anch'essi di carta. Nell'altro mondo non doveva mancargli ciò di cui aveva goduto in questo. Il feretro, imponente, decorato come una carrozza imperiale, passò per i viali della città tra due file di soldati in alta uniforme, preceduti da cavallerizzi con divise da brillanti colori, dai brillanti colori e da una banda di musicisti provvisti di cembali, tamburi, flauti, campane, triangoli di metallo e diversi strumenti a corde. Il baccano era insopportabile, come era giusto che fosse per un estinto di tale importanza. Sulla tomba si accumularono fiori, abiti e cibo. Furono accese candele e incensi e alla fine furono bruciati il denaro e i numerosi oggetti di carta. L'ancestrale tavoletta di legno rivestita d'oro su cui era inciso il nome del maestro venne collocata sulla tomba per poter accogliere lo spirito mentre il corpo tornava alla terra. Spettava al figlio maggiore ricevere la tavoletta, collocarla in casa sua in un posto d'onore vicino a quelle degli altri antenati maschi, ma il medico non aveva chi potesse espletare tale compito. Tao Qian era semplicemente un servo e da parte sua sarebbe stata un'assoluta mancanza di etichetta offrirsi per farlo. Era sinceramente commosso, nella folla era l'unico le cui lacrime e singhiozzi corrispondevano a un dolore autentico. Ma l'ancestrale tavoletta andò a finire nelle mani di un nipote lontano che avrebbe avuto l'obbligo morale di deporre delle offerte e di pregare davanti a essa ogni 15 giorni e a ogni festività annuale. Una volta conclusi i solenni riti funebri, i creditori si avventarono come sciacalli sui beni del maestro, violarono i testi sacri e il laboratorio, misero a suo quadro le erbe, distrussero i preparati medicinali, rovinarono le poesie dall'accurata fattura. Si portarono via mobili e oggetti d'arte, calpestarono il bellissimo giardino e fecero piazza pulita dell'antica dimora. Poco prima, Tao Qian aveva messo in salvo gli aghi d'oro per l'agopuntura, una cassetta di strumenti medici, alcuni rimedi essenziali, nonché un po' di denaro sottratto poco a poco negli ultimi 3 anni, cioè da quando il padrone aveva cominciato a perdersi nell'impervietà della demenza senile. Non aveva avuto intenzione di derubare il venerabile Chong Yi, che stimava come un nonno, ma di usare quel denaro per alimentarlo dal momento che vedeva i debiti accumularsi e temeva per il futuro. Il suicidio fece precipitare le cose e Tao Qian si ritrovò in possesso di una risorsa insperata. Impossessarsi di quella somma poteva costargli la testa, giacché sarebbe stato considerato un crimine di un inferiore nei confronti di un superiore, ma era certo che nessuno l'avrebbe saputo, salvo lo spirito del defunto, che senz'altro avrebbe approvato l'azione. Non avrebbe forse preferito premiare il suo fedele servo e discepolo piuttosto che saldare uno dei molti debiti ai suoi feroci creditori? Con questo modesto tesoro e un cambio d'abiti puliti, Tao Qian scappò dalla città. Lo attraversò fugacemente l'idea di tornare al villaggio natale, ma immediatamente la scartò. Per la sua famiglia sarebbe sempre stato il quarto figlio e avrebbe dovuto sottostare e obbedire ai fratelli maggiori. Avrebbe dovuto lavorare per loro, accettare la sposa che gli avessero scelto e rassegnarsi alla miseria. Niente lo spingeva in quella direzione, nemmeno gli obblighi filiali nei confronti del padre e degli avi che ricadevano sui fratelli maggiori. Aveva bisogno di andarsene lontano, dove non lo raggiungesse la lunga mano della giustizia cinese. Aveva 20 anni, gliene mancava uno per compiere i 10 di schiavitù e qualsiasi creditore poteva reclamare il diritto di utilizzarlo come schiavo per quel lasso di tempo. Tao Qian. Tao Qian prese un sampan diretto a Hong Kong, animato dall'intenzione di cominciare una nuova vita. Ora era uno Zhong Yi avviato alla medicina tradizionale cinese, dal miglior maestro di Canton. Doveva eterna gratitudine agli spiriti dei suoi venerabili antenati che avevano orientato il suo karma in modo tanto glorioso. Per prima cosa decise, doveva trovarsi una donna, perché aveva abbondantemente raggiunto l'età del matrimonio e il celibato gli pesava troppo. La mancanza di una sposa era segno di indubbia povertà. Accarezzava l'ambiziosa ipotesi di procurarsi una giovane delicata con belle estremità. I suoi loti d'oro non dovevano misurare più di 3 o 4 pollici di lunghezza e dovevano essere paffuti e morbidi al tatto come quelli di un bambino di pochi mesi. Lo affascinava l'incedere delle ragazze sui loro minuscoli piedi, a passi molto brevi e vacillanti come fossero sempre sul punto di cadere, i fianchi dondolanti all'indietro, come il movimento ritmico dei giunchi sulle rive dello stagno nel giardino del suo maestro. Detestava i piedi grandi, muscolosi e forti da contadina. Al villaggio aveva visto da lontano delle bambine fasciate, orgoglio delle loro famiglie che senz'altro sarebbero riuscite a offrire loro un buon matrimonio, ma solo grazie ai contatti con le prostitute di Canton aveva potuto tenere tra le mani un paio di quei loti d'oro e andare in estasi davanti alle minuscole scarpette ricamate che sempre li ricoprivano. Perché le ossa martoriate per anni e anni sprigionavano una sostanza maleodorante. Dopo averli toccati, comprese che la loro eleganza era il frutto di un dolore incessante e ciò li rendeva ancora più preziosi. Fu allora che apprezzò come doveva i libri sui piedi femminili collezionati dal maestro, in cui si enumeravano 5 classi e 18 diversi tipi di loti d'oro. La sua donna doveva essere anche molto giovane perché la bellezza dura poco, comincia verso i 12 anni e svanisce poco dopo aver compiuto i 20. Così gli aveva spiegato il maestro. Non per nulla, le più celebri eroine della letteratura cinese morivano sempre nel momento del loro massimo fascino. Benedette coloro che svanivano prima di vedersi distrutte dall'età e potevano essere ricordate nel pieno della loro freschezza. Inoltre vi erano ragioni pratiche per preferire una giovane nubile. Gli avrebbe dato figli maschi e sarebbe stato facile domare il suo carattere e renderla veramente remissiva. Niente di più spiacevole di una donna sguaiata. Ne aveva viste di quelle che sputavano e prendevano a ceffoni mariti e figli perfino in strada, davanti ai vicini. Un'onta simile per mano di una donna era il peggior discredito per un uomo. Sul sampan che lo conduceva lentamente, lungo le 90 miglia che separavano Canton da Hong Kong, allontanandolo minuto dopo minuto dalla sua vita passata, Tao Chien sognava questa ragazza, il piacere e i figli che gli avrebbe dato. Continuava a contare il denaro che aveva in borsa come se, grazie a calcoli astratti, potesse incrementarne l'ammontare, ma era evidente che non sarebbe stato sufficiente per una sposa di tale qualità. Tuttavia, per quanto l'urgenza fosse molta, non pensava di doversi accontentare di qualcosa di meno e trascorrere il resto dei suoi giorni con una sposa dai piedi grandi e dal carattere forte. L'isola di Hong Kong gli apparve all'improvviso davanti agli occhi, con il suo profilo di montagne e di natura verde. Quasi emergesse come una sirena dalle acque color indaco del mare della Cina. Non appena la leggera imbarcazione che lo trasportava attraccò in porto, Tao Chien avvertì la presenza degli odiati stranieri. Prima ne aveva intravisti alcuni in lontananza, ma ora erano così vicini che se si fosse arrischiato avrebbe potuto toccarli e accertare se quegli esseri grandi e sgraziati fossero veramente umani. Con stupore scoprì che molti Fan Guei avevano capelli rossi o gialli, occhi smorti e pelle arrossata come quella delle aragoste bollite. Le donne, a suo parere molto brutte, portavano cappelli con piume e fiori, forse allo scopo di celare le loro diaboliche chiome. Vestivano in modo inusuale, con capi rigidi e attillati. Immaginò che fosse per questo motivo che si muovevano come automi e non salutavano con inchini cordiali, che passavano senza guardare nessuno, sopportando in silenzio la calura estiva sotto i loro scomodi indumenti. C'era una dozzina di imbarcazioni europee in porto, in mezzo a migliaia di barche asiatiche di ogni dimensione e colore. Per le strade vide alcune carrozze trainate da cavalli alla cui guida stavano uomini in divisa, persi tra i mezzi di trasporto trainati dall'uomo, barelle, portantine, palanchini o semplicemente individui che portavano i loro clienti in groppa. L'odore di pesce lo investì in viso come uno schiaffo, ricordandogli la fame. Per prima cosa doveva trovare un luogo in cui rifocillarsi, indicato con lunghe strisce di stoffa gialla. Tao Chien mangiò come un principe in un ristorante gremito di persone che parlavano e ridevano a squarciagola, indizio inequivocabile di soddisfazione e buona digestione. In esso assaporò i delicati piatti che nella casa del maestro agopuntore erano stati dimenticati. Durante la sua vita, Lo Jung-i era stato un grande goloso e si vantava di aver avuto a suo servizio i migliori cuochi di Canton, ma negli ultimi anni si nutriva di tè verde e di riso con qualche filo di verdura. All'epoca in cui era sfuggito alla schiavitù, Tao Qian era magro come uno qualunque dei molti malati di tubercolosi di Hong Kong. Questo era il primo pasto decente dopo molto tempo e l'incursione dei diversi sapori, aromi e consistenze lo portò all'estasi. Concluse il banchetto fumando la pipa con massimo godimento. Uscì in strada, galleggiando e ridendo da solo come un matto. In tutta la sua vita non si era mai sentito così carico di entusiasmo e buona sorte. Inspirò l'aria così simile a quella di Canton e stabilì che sarebbe stato facile conquistare quella città. Esattamente come 9 anni prima era arrivato a dominare l'altra. Anzitutto avrebbe cercato il mercato e il quartiere dei guaritori e degli erboristi, dove avrebbe potuto trovare alloggio e offrire i suoi servizi professionali. Poi si sarebbe occupato della questione della ragazza dai piedi piccoli. Quello stesso pomeriggio Tao Qian trovò alloggio nell'attico di un palazzo diviso in compartimenti che ospitava una famiglia per stanza. Un vero formicaio. La sua camera, un tenebroso tunnel di 1 metro di larghezza per 3 di lunghezza, senza finestre, buio e caldo, attirava gli effluvi del cibo e dei pitali degli altri inquilini, mescolati all'inconfondibile fetore della sporcizia. Paragonata alla raffinata casa del maestro, era come vivere in un buco per topi, ma ricordò che la capanna dei genitori era più povera. Nella sua condizione di celibe non aveva bisogno di maggiore spazio né di lussi, pensò, solo di un angolo per riporre i suoi pochi averi e stendere la stuoia. Più avanti, una volta sposato, si sarebbe cercato una sistemazione appropriata in cui si potessero preparare i rimedi, ricevere i clienti ed essere servito da una donna nel modo adeguato. Per il momento, mentre stabiliva i contatti indispensabili per lavorare, quello spazio quantomeno gli offriva un tetto e un minimo di intimità. Lasciò lì le sue cose e andò a farsi un bagno, a radersi la fronte e a rifarsi la treccia. Non appena fu presentabile, uscì di gran fretta alla ricerca di una casa da gioco, deciso a raddoppiare il suo capitale nel minor tempo possibile, per poter così intraprendere la strada del successo. In meno di 2 ore di scommesse a Fantan, Tao Qian perse tutto il denaro e non perse anche gli strumenti medici semplicemente perché non gli era venuto in mente di portarli con sé. Lo schiamazzo nella sala da gioco era talmente assordante che le scommesse si facevano a segni attraverso la cortina di fumo. Il Fantan era molto semplice: si trattava di mettere una manciata di bottoni sotto una tazza, si facevano le scommesse, si toglievano i bottoni 4 alla volta e chi indovinava quanti ne erano rimasti, uno, due, tre o nessuno, aveva vinto. Tao Qian riusciva a malapena a seguire con gli occhi le mani dell'uomo che lanciava i bottoni e li contava. Gli sembrava che barasse, ma accusarlo in pubblico sarebbe stata un'offesa talmente grande che in caso di errore si poteva pagare con la vita. Ogni giorno a Canton si raccoglievano cadaveri di perdenti arroganti nei pressi delle case da gioco. A Hong Kong non poteva essere diverso. Ritornò al tunnel dell'attico e si sdraiò sulla stuoia a piangere come un bambino, pensando alle bastonate ricevute per mano dell'anziano maestro agopuntore. La disperazione non lo abbandonò fino al giorno successivo, quando, con penetrante lucidità, comprese la sua impazienza e la sua superbia. Allora scoppiò a ridere rincuorato per la lezione, convinto che lo spirito monello del maestro gli si fosse parato dinanzi per insegnargli ancora qualcosa. Si svegliò nel buio profondo per l'animazione dell'edificio e della strada. Era mattina inoltrata, ma la luce naturale non penetrava nel suo tugurio. Si vestì alla cieca con l'unico cambio pulito, continuando a ridere tra sé e sé, prese la valigetta da medico e si diresse al mercato. Nella zona in cui erano allineate le bancarelle dei tatuatori, completamente ricoperte da pezzi di stoffa e di carta che mostravano i disegni, si poteva scegliere tra migliaia di motivi, da fiori discreti, blucina, a fantastici draghi a 5 colori, in grado di decorare, con le ali spiegate e l'alito di fuoco, tutta la schiena di un uomo robusto. Trascorse mezz'ora a mercanteggiare e alla fine giunse a un accordo con un artista desideroso di scambiare un tatuaggio poco impegnativo con un tonico per la pulizia del fegato. In meno di 10 minuti, questi gli incise sul dorso della mano destra, quella con cui scommetteva, la parola no in semplici ed eleganti tratti. Se il mio sciroppo avrà effetto, raccomandi i miei servizi ai suoi amici, gli disse Tao Qian. Se il mio tatuaggio avrà effetto, faccia altrettanto, replicò l'artista. Tao Qian sostenne sempre che quel tatuaggio gli portò fortuna. Uscì dal baracchino per ritrovarsi nel frastuono del mercato e avanzò a spintoni, a gomitate, per gli stretti vicoli traboccanti umanità. Non si vedeva un solo straniero e il mercato sembrava identico a quello di Canton. Il baccano era quello di una cascata, i venditori decantavano i pregi dei loro prodotti e i clienti contrattavano a squarciagola in mezzo all'assordante frastuono degli uccelli in gabbia e ai gemiti degli animali che attendevano di essere accoltellati. Il tanfo di sudore, di animali vivi e morti, di escrementi e spazzature, spezie, oppio, cibarie e di ogni sorta di prodotti e creature della terra, dell'aria e dell'acqua, era talmente penetrante da sembrare palpabile. Vide una venditrice di granchi, li estraeva vivi da un sacco, li faceva bollire per qualche minuto in un paiolo, la cui acqua aveva la consistenza pastosa del fondo del mare, li estraeva con una schiumarola, li inzuppava nella salsa di soia e li serviva ai passanti avvolti in un pezzo di carta. Le sue mani erano ricoperte di verrughe. Tao Qian barattò con lei un mese di pranzi con la cura della malattia. Ah, vedo che le piacciono parecchio i granchi, disse lei. Li detesto, ma li mangerò come penitenza per non dimenticarmi una lezione che devo sempre tenere a mente. E se a fine mese non sono guarita, chi mi rende i granchi che lei mi ha mangiato? Se fra un mese lei avrà ancora le verruche, io avrò perso credibilità. Chi comprerà allora le mie medicine? Sorrise Tao. Va bene. Cominciò così la sua nuova vita da uomo libero a Hong Kong. In 2 o 3 giorni l'infiammazione dovuta al tatuaggio si dileguò e l'immagine apparve come un nitido disegno di vene blu. Durante quel mese, mentre girava per i banchetti del mercato offrendo le sue prestazioni, mangiò una sola volta al giorno sempre granchi bolliti e scese tanto di peso che poteva sistemarsi una moneta tra una costola e l'altra. Ogni animaletto che ingoiava, vincendo la ripugnanza, lo faceva sorridere al pensiero del maestro come lui poco amante dei granchi. Le verruche della donna scomparvero in 26 giorni e lei, riconoscente, diffuse la buona notizia nel vicinato. Gli offrì un altro mese di granchi in cambio di una cura per la cataratta, ma Tao ritenne che la punizione fosse stata sufficiente e che poteva permettersi il lusso di non tornare ad assaggiare quelle bestiole per il resto dei suoi giorni. La sera tornava esausto al suo tugurio, contava le monete alla luce della candela, le nascondeva sotto una tavola del pavimento e poi scaldava l'acqua sul fornello a carbone per ingannare la fame con il tè. Di tanto in tanto, quando le gambe o la volontà iniziavano a venirgli meno, comprava una scodella di riso e un po' di zucchero o dell'oppio che si gustava lentamente, grato al mondo per l'esistenza di doni così splendidi quali la consolazione del riso, la dolcezza dello zucchero e i sonni perfetti dell'oppio. Le sue uniche spese erano l'affitto, le lezioni d'inglese, la rasatura della fronte e il lavaggio del suo unico cambio di indumenti perché non poteva andare in giro come un accattone. Il maestro si vestiva sempre come un mandarino. La bella presenza è segno di civiltà. Uno Zhongyi non si confonde con un guaritore di campagna. Per rispetto, quanto più povero il malato, più ricchi devono essere i tuoi abiti. Gli aveva insegnato. A poco si diffuse la sua fama, prima tra le persone del mercato e le loro famiglie, poi nel quartiere del porto, dove ai marinai curava le ferite da rissa, lo scorbuto, le pustule venere e le intossicazioni.